Mi sembrava troppo strano il rapporto Torres. Dice qualche volta era Porto Torres e qualche volta San Giovanni. Sì, ma quella cosa tanto era quando ho trovato Porto Torres. Sì, ma che strano. Ma di positivo è il Cavaroglio. Sembra strano anche a me. Sei arrivato un culo oggi, mamma mia. Sono stanco. Ho arrivato ad un poco di cose che non si via, per carità. Mamma mia, va. E cosa che conservi, no? Cosa ti servono? Ci sono baracchini pure. Da no. Uno si può dire non vede più. Allora, lui diceva, non ho smontato di più, tutto va saltato. Mi si piace chi, tutto va saltato. Guarda che naturalmente ha fatto tutto. Un coso, un ma sono quelli vecchi vecchi, un pace. 8020, boh. Almeno su cui abbia un pace. Ma arriva, tu lo piango per questi. Uno è arrivato. C'è uno che stava con io, sta usando, è caduto in terra, acceso. Boh, ora non è acceso tutto, però non va, non va trasmissione. Non riceve. Se sei riuscito a testarlo. Ah no, ho cacciato tipo un apparecchio. Forse di bubuni mai diretto. Lascia verde. Lascia verde. No, via. Ah, però oggi ho una poker. Ma io 490 milioni di chips. Tutto quanto ci ho messo. Non so più un tiro. Sta attento. Ah, non sto attento anche. Se lì si vanno in culo, ti pareano. Cioè, non so, appena un tiro, allucinante. Ma alla fine c'ho 192 milioni. Ci vuole cioè tutto, passavo di riprendere, e allora mi ha preso con col K e mi ha girato l'asso un po', non c'era cura l'asso, mi ha fatto buonissimi, l'ultimi. E mi sono andato, io ci vuole fare il culo. Ma com'è che non so di un avere, se no guai. E ma una cosa allucinante, poi c'è un altro, non so se sei mai entrato tu, a quello di Facebook, di Zinga. No, ma io non entro in quelle cose lì. Ehi, stava lì sotto una massa del tempo, capito? Ehi, ha comprato tu ieri, no, tu? Ciao. Ho fatto gli auguri su Facebook, mi hai visto? Ma che siamo messo d'accordo già, ma ero in freddissima, ero. Ehi, appare tutto lì. Ehi, Facebook non si guarda i gatti sui, per carità, che programma, va. Ah, sì, dico che a me piace. Cosa? Dico che a me piace. Piace? Va. Dammelo più di tanto. Ma già piace. Arriva la casa di marito, sarà chissà, grazie, no? E non l'ha già avuta. Bravo, si dizendi, e nei contatti, Sonia si chiama, è l'unica Sonia lì, ma con me nei contatti la vedi, cosa non è? Ma si chiama di cognome, L'unica Sonia lì, Anto, non c'è da sbagliare, o non è un'altra Sonia? Ma bisogna cercare molto, vero? E la S, ma cognome comunque. Comunque non c'è, ma te lo dico il cognome qua, comunque vai e la trovi. Una bella ragazza, una bella donna, 40 anni, non è che non è minorita, no?